Meccanica quantistica, relatività, fisica statistica, elettromagnetismo. Come sono state fatte queste scoperte? E poi tutte le curiosità sulla vita di Niels Bohr, di Newton o di Marie Curie. Bisognerebbe intervistare i fisici del passato. Ma queste interviste sono impossibili. No, non esistono interviste impossibili per Radio Mocha. Intervista impossibile a Michael Faraday. Voci di Giulia Cencetti e Leonardo Lenzini. Buongiorno, professor Faraday. Grazie per il buongiorno. Ma non sono né professore né dottore, sono solo un ricercatore appassionato. Già, lei non ha avuto una formazione accademica. Tutt'altro. Sono nato nel 1792 nel villaggio di Newington, vicino a Londra. E mio padre era un fabbro. I miei non avevano certo i soldi per farmi studiare. E a 14 anni dovetti andare a lavorare. Per fortuna ero piuttosto abile con le mani. Così, invece di battere il ferro, andai a fare il rilegatore di libri in una libreria. Questo lavoro le piaceva? Certo, sono sempre stato un buon artigiano e in più in questa maniera potevo leggere un bel po' di libri che non avrei certo potuto permettermi. E come si è avvicinato invece alla scienza? Leggendo un libro sulla chimica e alcune voci dell'Enciclopedia Britannica, venne a sapere delle ricerche di un vostro connazionale, Alessandro Volta, e mi costruì una pila usando dei nichelini. E poi incontrò Humphry Davy, già. Giusto? Sir Davy era un frequentatore della libreria e il mio capo riuscì a convincerlo a farmi assistere alle sue lezioni. A quel tempo la scienza era davvero popolare e c'erano fior fiori di gentiluomini, ma anche di donne, che pagavano per assistere alle lezioni di Davy. Lui poi era un vero dandy. A suo agio, con la nobiltà, era il direttore della Royal Institution. Che non è la Royal Society. No, davvero. La Royal Society era formata da degli appassionati di scienza. Certo, ma in senso molto elitario. Tutta gente che veniva da Cambridge e da Oxford. Certo, c'erano stati Hooke e Newton nella Royal Society, ma non avevano certo uno scopo didattico. Invece, la Royal Institution nacque per volere di Lord Rumford, ovvero Benjamin Thompson, che si era reso conto del distacco che avevamo accumulato con la Francia. Là lo spirito enciclopedico si era tradotto in una serie di iniziative di promozione scientifica. Subito dopo la rivoluzione e l'ascesa al potere di Napoleone, le istituzioni scientifiche francesi avevano realizzato una rivoluzione culturale, non meno impetuosa di quella politica, mentre noi stavamo ancora a discorrere sui serpenti di mare, le pecore a due teste. E quindi? All'inizio la Royal Institution avrebbero dovuto formare dei tecnici di alto livello, ma la sconfitta di Napoleone nel 1815 fece passare in secondo ordine questa esigenza. E mentre Davy era direttore, si trasformò piuttosto in un laboratorio di ricerca. E lei come c'entrò? Grazie alla mia abiltà artigiana. Seguì le lezioni di Davy e per ringraziarlo rilegai gli appunti che avevo preso, con tanto di disegni, e glieli rilegai. Fu così colpito dalla mia conscienziosità da assumermi come pulitore di vetrerie di laboratorio. Come? Non come assistente? Voleva mettermi alla prova, offrendomi un lavoro così di basso livello. Se avessi accettato, sarebbe stato il segno che ero veramente disposto a tutto per entrare in un laboratorio, cosa che feci. E fu bene accolto, nonostante non fosse acculturato? Beh, evidentemente il mio valore emerse. Diventai assistente di Davy e poi addirittura lo sostituii alla guida della Royal Institution, ma non fu facile. Per esempio, quando Davy nel 1813 partì per un tour europeo, mi chiesi di seguirlo. Come un tour europeo? Non eravate in guerra con la Francia? Sì. Beh, però bisogna dire che Napoleone apprezzava veramente la scienza. Lui stesso si è sempre definito accademico, prima che imperatore. Fornì quindi un lasciapassare a Davy, che gli permetteva di viaggiare in tutti i territori sotto l'influenza francese, ovvero praticamente in tutta Europa. E fu un'esperienza interessante? Dal punto di vista intellettuale, certamente. Fu un'occasione unica, ma dal punto di vista umano fu terribile. Il cameriere di Davy non volle lasciare l'Inghilterra, così mi chiesero di fare il valletto fino a Parigi. Ma poi neppure lì riuscimmo a trovare un sostituto e dovetti continuare a fare il servitore. In particolare la moglie di Davy, Jane Apris, rifiutò di trattarmi come un pari grado e mi rese la vita così miserevole che considerai spesso l'idea di tornare da solo in Inghilterra e rinunciare completamente alla scienza. Ma grazie alla mia fede resistetti e sopportai a tutto. E di che fede era? San Demaniano. Una setta di origine scozzese, molto vicina al cristianesimo delle origini, e quindi decisamente avversa alla chiesa anglicana. Anche Newton era sotto sotto un antitrinitariano, come noi, che crediamo nel duro lavoro, nella modestia e nel riconoscimento divino dei nostri sforzi, cosa che puntualmente avvenne. In che senso? Vi aspettavate la ricompensa? Affatto. Uno deve agire sempre secondo giustizia e compassione. Ho aiutato tanta gente che non ce la faceva a vivere dignitosamente. Ho pagato gli studi a molti ragazzi poveri. Per fortuna ho incontrato un'anima gemella, mia moglie, Sara Bernard. Anche lei, sandemaniana, che mi ha sempre supportato e aiutato. Parliamo delle sue scoperte. Come avrà capito, io sono stato essenzialmente uno sperimentatore. Dato che mi mancavano completamente le basi matematiche, ma grazie alla mia tenacia, documentata dagli innumerevoli libri di laboratorio che ho lasciato, sono riuscito a capire qualcosa del magnetismo. La forza magnetica è misteriosa perché sembra avere più origini. Da una parte ci sono i materiali magnetici, dall'altra le azioni delle correnti, e nel mezzo i materiali ferromagnetici che si comportano in maniera diversa da quelli paramagnetici e da quelli dimagnetici. L'elettricità è molto più semplice, ci sono cariche positive e negative, ma i poli magnetici non si possono separare. Se si spacca una calamita, i due frammenti avranno sempre un polo nord e un polo sud. Inoltre le correnti agiscono sui materiali magnetici, ma solo quando c'è una variazione. Anche il grande Ampère, che aveva determinato gli effetti meccanici tra due file di corrente, non ci capiva nulla. Alla fine dimostrai che succedeva qualcosa solo quando il flusso magnetico variava. Feci vedere che avvicinando una calamita o un solenoide percorso da corrente ad una spira, si introduceva una corrente nella spira stessa. E lei ha anche inventato il motore elettromagnetico. Diciamo che ci sono andato vicino. L'idea era nell'aria e Davy voleva arrivarci prima di tutti. Sapeva che io ero più abile di lui e quindi mi proibì di lavorare sull'argomento. Mi toccò aspettare la sua morte per riuscire a far girare una sbarretta percorsa da corrente immersa in un bicchiere con del mercurio che faceva da contatto rotante dentro un campo magnetico. Senta, ma lei è stato anche un chimico? Sì, sì, è vero. Ho scoperto le leggi che portano il mio nome e che praticamente dimostrano la quantizzazione della carica elettrica, ovvero dell'elettrone, visto che in una elettrodeposizione la quantità di materia depositata è sempre un multiplo del peso atomico della sostanza, a seconda del suo grado di ionizzazione. E infine riuscì anche a dimostrare un effetto del magnetismo sulla luce. Capire la natura della luce mi ossessionava. Adesso voi sapete che è una radiazione elettromagnetica, ma ai miei tempi c'era ancora lo strascico della disputa tra Newton, che sosteneva l'ipotesi corpuscolare, e Huygens, che invece sosteneva quella ondulatoria. Ma se erano onde, si doveva riuscire a perturbare il mezzo in cui si propagavano. Alla fine riuscì a dimostrare che un campo magnetico faceva ruotare il piano di polarizzazione della luce in un vetro. Oggi voi sapete che questo è dovuto all'interazione della luce con gli elettroni presenti negli atomi del vetro. Purtroppo non mi riuscì di trovare un effetto analogo per la gravità. Strano che lei non sia seppellito in Westminster come Newton. Ci mancherebbe altro. Non ho mai voluto altro che riconoscimenti scientifici e mai mi sono piegato a fare altro che scienza. Quando, durante la guerra di Crimea, tra il 1853 e il 56, il governo britannico mi chiese di contribuire alla realizzazione di armi chimiche, dissi che i miei principi etici non me lo permettevano. Con uguale fermezza rifiutai anche i vantaggi sociali ed economici di una nomina cavaliere e per ben due volte la nomina presidente della Royal Society. Solo nel 1848 accettai l'abitazione ad Hampton Court che mi fu offerta dalla Casa Reale Inglese come riconoscimento per le mie scoperte scientifiche. E alla mia morte rifiutai anche il privilegio di essere sepolto nel Pantheon inglese. Da santa maniana avevo deciso che neppure da morto avrei mai varcato la soglia di una chiesa anglicana, tantomeno per restarci. Lei è stato veramente un tipo tosto. Complimenti, signor Faraday. Grazie dell'intervista, anche se non sono sicuro di non aver travalicato i miei principi rilasciandola. Comunque buon lavoro. Avete ascoltato una puntata delle Interviste Impossibili ai Fisici del Passato, una rubrica della trasmissione Radio Moca di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini, in onda su Nova Radio. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia e del Centro per lo Studio di Dinamiche Complesse dell'Università di Firenze. I testi sono stati pubblicati da Apice Libri, e sono accessibili su caffescienza.it.